stai, se vuoi andare vai, noi siamo qua, un po' fuori dalla realtà, fai come me, nei brutti momenti. Pensa a un mondo che non c'è, dove tutto è più facile, dove tutto è più semplice. Immaginazione è il pensiero che ti aiuta, lo sai, e fai come. Pensa ad un mondo fatto di fantasia, dove tu puoi vivere un sogno. Pensa ad un mondo fatto di fantasia, credici fino in fondo. Ciao, dove sei e che cosa fai, noi siamo qui, tutti a viverci, fai come me, nei brutti momenti. Dove tutto è più facile, dove tutto è più semplice, in un mondo che non c'è. Noi siamo qua cantare la nostra storia, sotto a una luna che ci consola e ci rassicura, sotto tante stelle che stanno lì appese nel niente. Pensa a un mondo che non c'è, dove tutto è più facile, dove tutto è più semplice. Immaginazione è il pensiero che ti aiuta, lo sai, e fai come. Pensa ad un mondo fatto di fantasia, dove tu puoi vivere un sogno. Pensa ad un mondo fatto di fantasia, credici fino in fondo. Viviamo tra la gente che è sempre un sogno. Amore, allegria e tanta fantasia. Pensa a un mondo che non c'è. sudden.